repubblicani, tutti quelli che si sono salvati sono fuori bastardi, quelli di razza sempre qualche cosa sarà una buzza. Si dice meticcio, non bastardo, meticcio. Sì, è vero, sono più furti come il cazzo, che sono abituati a mangiarmi tutto. Io adesso, a proposito di mangiare, vi lascio perché devo andare a mettere la pasta al forno, se no oggi non mangiamo. Ciao ragazzi, statemi bene, buon pranzo a tutti e viva gli animali, ciao. Ciao, ciao già, buon pranzo, ci sentiamo. E così è, oh Robè, forse non ho capito, vero gli animali, vi rispetto, più forse di quanto vi rispettano loro, anzi senza forse, perché quando tu prendi un animale, te lo porti a casa, lo stai segregando, o ti mostro lo spilling buro, per dire, indipendentemente dal fatto che possa stare bene o non bene, questo lo devi chiedere al cane se riesci a parlarci, se riesci. Per cui non è quello il discorso, io parto sempre dall'idea, il mondo animale con il mondo animale, gli uomini con gli uomini, non venite da là, è inutile stare lì a girarci attorno, perché l'uomo si prende il cane per moda si prende, poi quando non gli fa più comodo lo abbandona, e lo sappiamo benissimo che è sempre stato così e sarà sempre così, indipendentemente dal fatto che abbia voluto bene o lo abbia trattato bene, questo è un altro discorso. Se ti mancherebbe altro che ti prendi il cane e poi non lo tratti bene, allora sei brutto un criminale, per dire no. Io l'ho preso in questo modo, o Robè. Ma va, ti ricordo. No, sinceramente non voglio controbattere, Riccardi, il cane io dentro casa, in mezzo al letto, in mezzo alle cose dove ci sono cose da mangiare e cose, no, il cane deve stare fuori e basta. Dentro casa io forse sono abituato così, i gatti, quelli che si rimettono sul letto, c'era una questione affettiva, c'era mia sorella che se lo coricava, c'era un cagnolino piccolo, questo cane non è mai uscito di casa perché l'hanno trovato buttato dentro il cassonetto della mondezza, ci aveva pochi giorni, l'ha portato a casa, quel cane non è mai uscito, è nato in casa di mia sorella ed è morto di lì dentro, era un cristiano, lui non è mai uscito di casa perché non voleva uscire, qualche volta mia sorella portava, aveva terrore a uscire. Ok, vediamo un po', facciamo un riepilogo perché stiamo monopolizzando con questi discorsi del cane. C'è Giulio, Gianni, ti saluto, buona carica se ci sei ancora, se ci ascolti, scusa che non sono intervenuto. Poi c'è Giovanni Bracco, Tonino c'è ancora, è andato via. No, Tonino è andato via da molto. Vediamo un po', facciamo venire avanti a Giovanni Bracco, avanti Giovanni Bracco. Un saluto festoso a tutti. Chi è che ha parlato, Robè? Fai la fonte. Marco, come mai non dici un saluto gioviale? Com'era quella parola? Marco Condor, comunque, giusto. Ah, Marco, ciao Marco, salutoni, ben entrato, ben ascoltato, non te lo dico perché ancora non ho avuto modo di ascoltarti bene. Riprendi, Marco. Un giorno stavo ascoltando il discorso cani, no? Sì, saluto festoso a tutti, era la frase, c'è anche Luca comunque in parte, Luca Cariello. Allora, io come la vedo, noi abbiamo sempre avuto gatti perché sono più autonomi, per me il cane, a parte che non stravedo per i cani, per me sarebbe troppo impegnativo doverlo portare la mattina presto, la sera, la cosa, potrei stare male, non può, metti che in futuro sia solo, non potrei portarlo fuori a fare bisogni, è troppo impegnativo, meglio il gatto ha la sua sabbietta, fa tutto lui, bello, è abituato all'appartamento, anzi è abituato all'appartamento il gatto. Ok, detto ciò, vediamo se c'è Luca pure. Ecco un attimino. Ecco, bravo. Ehi, allora io stavo pranzando, diciamo quasi pranzato, là, sono in ascolto. Nel caso ci sentiamo stasera. Ciao Marco, Giulio, Roberto, Riccardo. Riccardino e Bracco Bracco, avanti Bracco Bracco. E OK, no, no, sto chiedendo se mi state copiando o no, porca miseria, perché stavo parlando un po' fa e nessuno mi rispondeva. Vabbè, ma mi stai copiando o no? Certo, anche gli altri ti ascoltano, Giovanni, tutti ti ascoltano. Beh, allora, no, stavo dicendo in merito al cane, poco fa stavo scherzando, no? Cioè, tu lo sai, ho fatto l'agente provocatore, no? E diciamo, ho detto poco fa che amo più gli animali che gli uomini, no? A parte gli scherzi, sono animali, animali e uomini, naturalmente sono uomini nel peggio delle bestie, ma ci sono uomini naturalmente che meritano un grande rispetto, come si chiama. E così sono gli animali puri, gli animali diciamo ci sono quelli mezzo incoscienti che aggrediscono anche il padrone, e ci sono gli animali invece che sensibili, che non mordono nemmeno gli altri, a dire la verità. Io diciamo, ho avuto a che fare sempre con dei bastardini che sono i migliori, cioè, senza assoluto, quindi diciamo ci sono cani e cani. Io avevo un cane che parlava, addirittura si chiamava per nome, nessuno mi crede, però quando l'ho messo davanti alla gente sono rimasti a bocca aperta. Certi cani diciamo, amano il proprio padrone al punto tale che si fanno ammazzare piuttosto di abbandonarlo. Quindi anche qua il discorso è un po' difficile. I cani che più sono pericolosi sono quelli che chiamano i cani di razza, quelli più veramente pericolosi, perché ne ho conosciuto parecchi, e diciamo che c'è gente che li teme, altri che no. Io conoscevo un pastore che i cani li faceva cagare addosso, per esempio anche un Doberman, si abbassava come lo puntava, e Doberman scappava e si picchiava addirittura. Perciò anche gli animali, tutto il discorso un po' difficile da fare, e quindi diciamo è meglio tenere, naturalmente se non si conosce è meglio tenerli a distanza, naturalmente, a meno che non siano dei bastardini di quelli piccolini. Ok, Robè, io rifaccio il micro a te e fai girare. Vabbè, questa discussione dei cani è stata molto canista, diciamo, anche il gioco di parole c'è. Ok, vediamo Riccardino se ci sei ancora. Un attimo, dai, io chiudo, ci sentiamo. Ciao a tutti e buon pranzo, ciao. Ciao Giù, ben sentito. Però guarda, ho abbassato la prima mic gain, ho allontanato un po' dal microfono. E Giulio, eri un po' gracchiante, lo sai, non per criticare, già lo sai. No, ho abbassato il mic gain, ero vicino al microfono, appoggiato vicino al microfono. Ok, dai, buon tutto Giulio, buona carica, facciamo riprendere a Riccardo. Avanti Riccardo per Giulio e poi Bracco per Giulio. Ok, ciao Giulio, Roberto, mi ha mandato una foto. Come? Ti ho mandato la foto del cane. Bello, che cos'è questo? È il pastore australiano, il maschio. Pastore? Pastore australiano. Ah, è bellino, dai, ma di taglia grossa è questo. Media. Sembra un cane affettuoso, dai, un cane bellino, dai. C'ha un po' il pelo del mare in mano e il muso, i colori del collo. Sì. Che è rimasto qua? Robè, io adesso vado a mangiare, io ho preso Bracco. Bracco, voi, gli altri non lo so, eventualmente ci sentiamo stasera. Diciamo, io ero convinto che oggi era un giorno feriale, invece no, caspitina, domani devo andare in campagna, devo andare a prendere la carne per i cani, invece tutto chiuso. I cani che erano in campagna, intendiamoci, io. Ma diciamo che lo piccolino non mi dispiacerebbe portarlo a casa, però mia moglie mi ha detto, porti il cane, o vuoi il cane, o prendi a me o prendi il cane, quindi a volte mi viene anche la voglia di dire di prendere il cane, ma di mattina ascolto quello che sto dicendo, ciao. Oh Giulio, allora a proposito, due cose, sentimi Giulio, scusa, Giovanni, se ti ricordi, allora quel cavo che mi avevi detto, quello verde, se ti ricordi, e poi se c'hai modo di portarmi 5 minuti in officina quel microfono che ti ho dato di quell'apparato, devo dare le connessioni a Luca, devo prendere i colori per indicare i pinni, i connettori, devo dire il colore numero 1 rosso, numero 2 verde, perché lui c'ha un apparato uguale con quelle connessioni e non riesce a risalire. Se c'hai modo Mari, passare in officina un attimino, così togliamo, vedo come sono connessi nel microfono, parlo l'M il Mobicom, quello che ti ho dato io di baracchino. Ma sta parlando, scusa, parlando del microfono del baracchino o il microfono che mi hai dato, o diciamo per quanto riguarda l'apparecchio HF? No, no, parlo del baracchino, proprio quello del baracchino, il suo originale. Siccome quello non è mai stato toccato, quel baracchino, le connessioni sono le originali. Luca ne ha uno uguale, però c'ha problemi di colori. Per non stare a perdere tempo, lo controllo un attimino, faccio una fotografia e glielo mando via WhatsApp. Se ti ricordi, a portarmelo un attimino in officina, e poi quando sei giù in paese, se ti viene bene, se c'hai quel cavo che mi hai detto. Un attimo. Sì, un attimo, ma sai che c'è Riccardino? Avanti, no, mi volevo dire che no, è bravo, bello, è bravo e buono. Ciao Riccardo, dai, buona carica e buon tutto, ci sentiamo magari stasera se coincide. Avanti Giovanni per Riccardo. Riccardi, te lo do io, bravo baldo, ciao, davvero. Ascolto bene, no, domani mattina ci sei. Se tu vuoi sapere se domani mattina ci sei, perché domani non ci vado in campagna, te lo detto, perché non c'ho mangiare per i cani, non c'è, no, dovevo andare in macelleria a prenderlo, no? Quindi domani in campagna non ci vado. Non so, probabilmente vado domenica, se no devo rovinare a lunedì a martedì. E quindi domani mattina al limite ti porto il microfono, fammi un colpo di telefono perché magari me ne dimentico. Io domani se alle 10 mi trovi, dai, devo fare le ultime, rimettere in ordine domani. Non volevamo aprire, ma c'è mio fratello, sta finendo la macchina del figlio e mi ha detto no, lo apriamo comunque, dai, perché volevamo fare il ponte, tanto siamo fermi. Comunque dai, se ti ricordi, vai, ti do un colpo di telefono, me lo avvicini 5 minuti e faccio le foto. E poi sei giù in paese, dove è? A Torralba o in campagna c'è questo caso? Speriamo che sia in campagna, perché se è a Torralba non si possa salire, per soli motivi, lo sai, no? Coronavirus. Se in campagna magari lo porto, se no devi aspettare quando vado a Torralba. Comunque non mi hai risposto, domani mattina ci sei o no? Sì, ho detto sino alle 10 mi trovi. Comunque ti puoi muovere, da lunedì ti puoi muovere, cioè è casa tua, non è che stai andando a trovare uno sconosciuto. Se è a casa tua, la campagna è la tua, ci puoi andare, è assolutamente possibile andare. Non so, da lunedì sì, se va domenica no, però, capito? La domenica no, perché qua siamo, come dire, no, ma in quarantena, non mi ricordo manco come cavolo si chiama. Va bene, Robert, fammi un colpo di telefono domani mattina, hai capito? Sì, dai, ok. Va bene, dai, vediamo, tu sei andato via adesso. Sì, adesso, ma che ore sono, che vedere? Tu l'hai 26. Adesso andiamo a pranzo, dai, e ti sentiamo direttamente stasera. Sì, ok, non c'è problema, dai, io rimango un pochettino così, se no faccio altre cose, tengo acceso il baracchino se c'è qualcuno, o se vuole entrare qualcuno nel frattempo. No, io ho mangiato una cosa veloce. No, mi stavo facendo ridere a quelli che si attaccavano, vedi, era quello che si incazzava, era un barroso, io con il mio, e io ho detto, porta, chiamavo più, come si chiama, più gli animali che gli uomini a vedere cosa diceva, ragazzi. Annaggia, no, di ogni maniera bellato. Ok, Robè, ci risentiamo, va. Ehi, ok, ma Marco c'è ancora? Ci c'è ancora Marco? Sì, ho ancora gli occhi chiusi, ma ci sono ancora. Ho detto, sì, sono belli i cani, quelli degli altri però. Troppo impegnativo, capo. Non so, è bello il cane, però hai detto bene, è un figlio, e per certi versi anche di più, perché si ammala più facilmente e le cure costano anche di più di un medico di famiglia, perché di lì non ce n'è di coso, di impegnativa, di coso, di veterinario, di rubaghi. E infatti guarda, quando vado a dire che ho i gatti, noi abbiamo avuto sempre gatti ben meticci, no? Gatti comuni, come li puoi chiamare. Quando eravamo amici subito chiedevano che razza è, siamese, d'angora, no, gatto comune, gatto di strada. E comunque è vero che i meticci bastardini, proprio perché sono un incrocio di razze, diciamo, sono fortificati, capito? Cioè prendono il meglio delle varie razze da cui hanno origine e sono più resistenti a malattie e tutto. Alcuni cani sono molto più delicati per certi tipi di malattie, che può essere, non lo so, adesso non ti so fare un paragone. Bene, comunque il gatto bello, vedi, è qua, spaparanzato, non devo portarlo fuori, non mi devo far tirare il braccio, c'è la sabbietta, dopo gliela devo cambiare e tutto finisce lì, cappa. Va bene, ciao anche all'amico Bracco, dai, lo sento bene anche, naturalmente, l'ho sempre sentito bene. Sì, vabbè, già siamo abbastanza vicini, no, qua arriva quasi 9.50, figurati, arriva a bomba, a te ti arriverà un po' di meno, ma saremo intorno ai 9.30 minuti. Comunque Robè, hai detto bene tu, per la in appartamento no, no. A me se proprio dovessi prendere un cane, prenderei uno di taglia media, meticcio taglia media, nemmeno grande, purché io abbia un giardino, un generoso giardino, allora forse potrei concepire di tenere un cane, però in appartamento no, per quanto siano 120 metri quadri, no meno, 115, no, no, è un po' in gabbia, capito? Deve correre, deve sciogliersi i muscoli, il cane, capito? Ok, detto il mio punto di vista, io quasi quasi giro la testa dall'altra parte e mi ricorico. Tanto oggi è festa. Come mai? Problemi? Come mai a quest'ora? No, no, sto scherzando. No, comunque è vero, sto dormendo da tardissimo. Guarda, non stanotte, ma ieri notte praticamente non ho dormito tutta la notte, nonostante pastiglia, no, nulla da fare. Io alle 9 ero sveglio, ho fatto fatica a prendere sonno. E quindi ho dovuto dormire ieri mattina, la mattina e il primo pomeriggio. E poi la cosa è peggiorata da quando siamo in questa clausura forzata, non, è tutto surreale, non sai che giorno è, se è festa, se non è festa, non sai che manco giorno della settimana, è una cosa surreale. Vabbè, a me non è che mi abbia cambiato più di tanto, perché tutte le cose che facevo prima, dalla mattina sino alla sera di chiusura dell'officina, è identico, non ho cambiato niente, le uscite, devo andare a prendere il materiale, lo fai. Il problema è che dopo l'officina, che io avevo tanto tempo libero, avevo sempre qualcosa da fare, uscivo poi fine settimana, andavo col camper, andavo al mare, un sacco di cose, quelle ancora non le ho potute fare, sono già un paio di mesi che siamo qua rintanati. Sì, è vero. Guarda, io spero che almeno l'estate ce la facciano fare. Infatti comincerò a lustrare zaini, roba da mare, a lavare i materi di asciugamani in previsione di giugno. Sempre tocchiamo ferro, che tutto vada bene. Ieri hanno fatto vedere un programma a Rete 4, questi di Rimini, dove sono completamente in crisi profonda e sono preoccupatissimi, e dice noi abbiamo già organizzato, hanno fatto delle specie di cupole per entrare dentro, tipo c'è presente gli igloo fatti in questo materiale plastico, e hanno fatto le prove adesso ad aprile inoltrato a mettere una persona e hanno misurato le temperature di lì dentro, e poi hanno fatto tipo tende, cose del genere, che anche non so quanto c'era di gradi di umidità, di temperatura, non so quanto c'era di umidità dentro. Dice figurati a punta di mezzo agosto cosa ci sarà. Oh, per carità, ma questi sono matti. Sì, avevo visto anche un gruppo di forse erano proprio quelli di Rimini, di non stilisti, architetti, come sì, architetti, e stavano studiando queste cupole fatte o di bambù, di materiale plastico da mettere, che poi non servono a niente, perché a meno che non sia tenuta ermetica, il virus passa, quindi cosa devi stare dentro una cupola sigillata? Ma vai, poi sta storia di mascherine, voglio proprio vedere le persone con 35 gradi all'ombra, se non di più, con la mascherina in faccia, voglio proprio vedere. Ah, io che sono ridicolo e finiamo, adesso a parte il virus già finisce subito al primo caldo, è come che c'è un'influenza, muore tutto, non ci sarà più niente e ce ne dimenticheremo di questa cosa. Poi a ottobre, novembre te ne capita un altro che non si chiama più 19, si farà 20 o 21, poi sarà, ce ne sono sempre state queste, questa magari è un pochettino più coso, più tosto, però hanno fatto delle cose esagerate, tutti i morti che ci sono stanno passando per coronavirus, ognuno che muri, hanno fatto vedere questa della protezione civile, anche gli infarti ci hanno messo in mezzo, l'ha detto lui personalmente, e sono morte anche queste di infarto, quest'altro è morto di leucemia e cose, che cacchio c'entra il coronavirus? E poi non hanno dato la possibilità a troppe persone di fare l'autopsia per accertare le vere cause. Sì, sì, questa è una cosa anche grave, la considero. Cioè, falsificando documentazione, documenti di morte di un individuo, no? Non esiste proprio. Questo Conte e i suoi amici, compagni di merende, si stanno allargando un po' troppo. Hai visto che il vero volto dei 5 Stelle, dei PDini, com'è? Per carità. Però fosse stata la destra li avrebbero fatti a pezzi. Come vedi sono PDini e 5 Stelle, hanno fatto la stessa identica cosa. No, hanno criticato Salvini, non per difendere Salvini che era un fascista, razzista, tutto qua. Se Salvini avesse fatto quello che ha fatto Conte, che proprio questo è il tipo dittatura, cioè si ha preso tutte le decisioni da solo, si ha messo gli amici suoi consulenti, 450 consulenti, che la maggior parte sono tutti consulenti di industrie farmaceutiche, questi secondo lui illuminari, perché ho visto anche interviste di gente che le ha smentiti, prima non era niente, ti dico, oh, che non è niente, noi andiamo tutti in giro, dopo 10 giorni era tutto cambiato, che era una cosa assolutamente pericolosa, ma che cacchio stai a dire? E finiamola di fesserie, dai. Purtroppo questo discorso è tutto per fare il vaccino, me ne tornerai le risposte, io l'ho detto dall'inizio, è tutto pilotato dalle industrie farmaceutiche per costringerti a farti il vaccino, perché poi ti dicono, se tu non ti fai il vaccino non puoi imbarcarti, non puoi andare in aereo, non puoi entrare in metropolitana, sono come in Cina, che devi farti quel codice QR, cioè sul cellulare, prima di entrare devi passare quello ed è la certificazione che tu puoi entrare in metropolitana, sanno chi sei, che cosa hai avuto, che tua madre, che tua sorella, eccetera eccetera, diventeremo tutti schedati eccetera, però ci sono quelli che arrivano dall'Africa, quelli possono fare i cacchi che vogliono, possono starsene in giro, possono sporcare e fare tutto quello che quelli non li possono toccare, però a noi ci devono inquadrare perché dobbiamo prendere il vaccino. Se ti vedi un po' di storie su questo vaccino ti metti le mani in testa, a parte che è già finita tra poco questa cosa qua, e ti fanno un vaccino di una cosa che sta finendo da solo, ti mettono ti inquinano l'organismo del virus del coronavirus, ti mettono in modo che gli anticorpi si mobilitano per cercare di contrastarlo, ti danno una dose limitata in modo che gli effetti collaterali, e dopodiché vedrai che ti hai fatto gli anticorpi per quello lì, se nel frattempo ti hai preso un altro virus di un'influenza, di qualunque cosa aggrippi, se sei debole, come è successo a molti di queste persone anziane che è morta, che erano vaccinati per il virus dell'influenza e hanno preso quel cacchio di cosa. L'organismo quando ti fa un vaccino devi stare 4 settimane in quarantena, non devi continuare a toccare nessuno e niente, perché sennò l'organismo, se viene infettato da un altro virus, è un problema, perché se non riesci a reagire ci passi dei guai. Dopodiché questo vaccino, che se ci sarà bisognerà vederlo, sarà già superato perché ce n'è un altro di virus eccetera. Ci vogliono delle medicine specifiche per dire tu c'hai sintomi e te li curi, come quando c'hai la febbre ti pigli la tachipirina o il raffreddore ti pigli l'aspirina, per dire. Una medicina devono trovare, non il vaccino è una cosa assolutamente inutile, non lo dico io, l'ha detto un grandissimo luminare che si occupa di queste cose, che ha fatto test per università e cose del genere, ha detto il vaccino se lo trovano adesso, se lo trovano, non serve proprio a niente, addirittura è ancora peggio, perché tu vaccinato puoi contagiare a quelli che sono sani, non viceversa. Pronto? Un attimo, posso intervenire, Robe? Prego. Allora, bisogna stare attenti purtroppo. Hai ragione, bisogna stare attenti, io non mi sono mai vaccinato e non mi vaccinerò mai, perché questi qua cosa faranno? Innanzitutto ti schedano e c'è il rischio che per un raffreddore, mia attenzione, o per malignità o per un motivo o per l'altro si bollina come positivo o come cavolo si chiama la parola giusta, e a un certo punto ti chiudono in casa e non puoi più uscire, ti condannano all'ergastolo, quello è perciò che bisogna stare attenti di non farli permettere assolutamente di entrare nel nostro telefono, nel smartphone né nel computer, se no siamo fregati. Allora, posso intervenire? Ma... Vai, vai. Allora, c'è una consulenza alla Camera dei Deputati di qualche giorno fa, una settimana fa, questa analista di laboratorio l'hanno chiamata, adesso per questo coronavirus, a esaminare dei vaccini. Ha esaminato 4 vaccini che ci sono, diciamo, ne ha esaminato di più, però in particolare 4 vaccini che diamo ai bambini in Italia, in fasce di età diversa. Prima di tutto ha detto che una cosa è che il vaccino a un bambino di età inferiore ai 6 mesi è inutile, non serve a niente perché ancora non ha sviluppato gli anticorpi, e noi lo diamo appena nato, danno questo vaccino. Primo errore, gravissimo, addirittura puoi creare dei problemi al bambino, puoi dargli degli effetti collaterali gravissimi, sono aumentate di 10 volte, non di una volta, di 10 volte i casi di cosa? Di autismo certificati. Dopodiché avevano analizzato in particolare questi 4 vaccini, tra cui quello contro la rosolia. In tutti i vaccini ci deve essere il virus, per contrastare il virus ci deve essere una parte di questo di questa malattia. In questo della rosolia non era presente, c'è un vaccino della rosolia che non ha un coso, gli anticorpi, diciamo, il virus della rosolia è una cosa inutile. C'erano 120 composti chimici all'interno di questo vaccino, di cui 78 di provenienza sconosciuta, non esistono nella tavola degli elementi, non sanno di che cosa si tratta, prima cosa. Poi hanno verificato in due vaccini in particolare, se non mi ricordo che cosa, c'era presente dell'alluminio. L'alluminio è la cosa più tossica che possa entrare nell'organismo, è una parte di metallo che non viene disciolto nel sangue e ti rimane per perennemente e crea dei cancri molto ma molto pericolosi. C'erano quelli che stavano ascoltando del Parlamento, non sapevano cosa dire. Quattro vaccini, adesso non mi ricordo che cosa, tra cui quella rosolia e di non so che cosa erano gli altri. La cosa più ridicola, in Italia abbiamo 12 vaccini, in Germania ne hanno 6 e in Francia ne hanno 8. E non penso che i francesi siano i macchi e i tedeschi siano i macchi, è solo una cosa pilotata dalle industrie farmaceutiche. Siccome le medicine le stanno facendo anche parafarmacie e cose del genere e il rendimento, le rese sono diminuite, ha detto dobbiamo inventare qualcosa, inventiamoci un vaccino, una malattia. Questa malattia esiste già da qualche anno e ne ha infettato tutto. Purtroppo è così. È inutile girarla intorno, a iniziare dai signori industrie farmaceutiche multinazionali, cioè che sono comandate da pochissime persone, hanno fatto questo. Adesso stanno comandando anche qua in Italia, sono entrati, perché quello che sta dicendo Conte non sono parole sue, sono dette da cosiddetti luminari, che sono i consulenti delle industrie farmaceutiche. E lì c'è un grosso conflitto di interesse, o fanno i consulenti o fanno i proprietari in case farmaceutiche, è palese il conflitto di interesse, però in Italia permettono tutto, è uno schifo. È quella la cosa vergognosa, cioè devi mettere ultraspartis, come si dice, questi che fanno le consulenze, gente che sul campo, c'era questo professore che lavora, che ha 6.000 pazienti in questo ospedale, ha detto io seguo la mia equipe, seguiamo, dice dovete venire qua nella realtà, non leggere nei libri che fai una tesi, un coso, un seminario e dici le cose, le prove sono la realtà dei fatti, e ha spiegato benissimo tutti i particolari, cosa cavolo sta dicendo, ci sono, questa malattia si evolve in tre fasi, c'è la prima fase, seconda fase e terza fase, quelli che arrivano all'ospedale sono già in terza fase, per cui non c'è più niente da fare, soprattutto quando sono persone con delle debilitate o altre malattie eccetera, perché tu nota bene, i giocatori di calcio che sono quelli diciamo più ricchi, che hanno le possibilità di curarsi, quelli si curano in casa, ne è mai morto qualcuno, guarda se ne è morto qualcuno, sono tutte persone, vengono curate con i farmaci, non dico specifici, però adatti per curare quel tipo di coso, non in particolare quel tipo di virus, per quel genere generalizzati, però dopo un po' guariscono, stanno bene e diventa tutto a posto. Purtroppo le persone che chiamano arrivano sempre troppo in ritardo, quando hanno la febbre altissima, problemi respiratori, a quel punto arrivano all'ospedale e vanno in terapia intensiva e non c'è quasi mai da fare, perché hanno detto il 50% di queste persone che arrivano sono già con delle cose talmente tragiche, oltre che le patologie di sintomi talmente gravi, che questa polmonite, io ho un amico che è venuto tra l'altro ieri a visitarmi, che ne è uscito da questa cosa, lui era su a Ponte di Legno, è venuto qua a Sassari ed è venuto col virus, è rimasto in quarantena fino all'altro giorno, l'hanno liberato e mi ha spiegato, dice che una cosa non è da spiegare quello che soffri di questa cosa qua, i polmoni, poi è una cosa che ti prende in tanti, in tubi laterali, in tutti e due i polmoni, ma ha dato tanti particolari, tante informazioni, perché questo l'ha avuto, non è dire per sentito di, e mi ha spiegato tante cose. E purtroppo quando c'è il sintomo, lui ce l'aveva già da parecchio questo, non l'hanno ascoltato, e anche quello è sbagliato, perché se l'avessero mandato dall'inizio, lui probabilmente non sarebbe fatto tutti quei giorni in ospedale. Poi come mai le catombe di coronavirus proprio lì in Nord Italia? Qualcuno ha detto, guardate che lì era stata fatta mesi prima una massiccia vaccinazione antimeningococcica zona Bergamo-Brescia, no? Soprattutto agli anziani. Infatti c'è stata ecatombe proprio in quella zona e proprio di anziani, cioè li hanno indebolito con questo vaccino le difese, perché si sapeva già che il virus era in circolo già da mesi, e poi gli è arrivato quello e gli ha dato il colpo di grazia. Sì, sì, vabbè, nella pianura padana ci sono altri motivi, ha spiegato proprio questo medico che è di lì, che lavora lì. Diciamo, hai detto bene, un vaccino, stava contrattando un altro vaccino, perché se tu c'hai, ti iniettano un vaccino, qualunque questo sia, il corpo reagisce, è come quando c'è la febbre è il sintomo dell'infezione, per cui sta lavorando l'organismo, gli anticorpi per correggere tutte queste imperfezioni, queste cose che si creano, l'organismo combatte con la febbre, col calore. Se tu ti hanno iniettato un vaccino, in quel momento lì, soprattutto se una persona è anziana, sta combattendo un'influenza, una piccola raffreddare, è finito, sei morto, sei fulminato, perché il 50% degli anziani che sono andati di lì dentro sono morti proprio perché avevano preso il vaccino, e non è poco il 50%. Poi, ritornando al discorso, come mai succede in quella zona lì, hanno spiegato anche a livello tecnico, c'è una percentuale così alta perché la pianura padana è chiusa dalle Alpi a nord e dalle Appennine a sud, per cui non c'è un ricambio d'aria, non c'è una ventilazione come potrebbe essere qua in Sardegna o nelle isole o nelle parti basse dopo gli Appennini, dove non ci sono grosse montagne. Quindi c'è sempre un'aria stantia, infatti se noti il tasso di inquinamento di lì ogni tanto chiudono è altissimo, per cui gli organismi di lì sono già, combattono per questo inquinamento, sei già debole di altre cose, hai dei problemi respiratori, infatti molte persone hanno grossi problemi respiratori, di obesità eccetera, e lì la percentuale statistica è molto più alta per quel motivo lì. esatto Robè, sì tutta roba al 100% confermabile. Lì già devono combattere con lo smog, tu pensa tutti i giorni, settimane, mesi, anni, decenni, e quindi già è come essere fumatore quasi, te lo immagini. C'è ancora l'altro amico, avanti. Ma non è andato via. Ma allora guarda, non so se tu in aereo ti capita di viaggiare, io ci viaggio abbastanza spesso, e ti posso dire una cosa, già in aereo, allora, a parte Sassari, che se non so se lo sai è la terza città al mondo, non d'Italia, del mondo, delle città che hanno più di 100.000 abitanti, Sassari è la terza città al mondo per avere il clima migliore, come clima, stiamo parlando pulizia, ricambio d'aria eccetera, ce ne sono altre due solo, una mi sembra che sia in Australia e l'altra non so dove sia, non mi ricordo, tre città, la terza è Sassari, di questo discorso qua. Io quando passo con l'aereo e passo sopra la pianura padana o zone di Roma, cose del genere, quando rientro in Italia tu vedi che cambia il colore del cielo, il colore del mare, della terra, di tutto, un'altra cosa. Io sono andato anche fuori all'estero, il colore che abbiamo noi in Sardegna del cielo, le tonalità di colori, di limpidezza di aria, forse perché siamo pochi, non ci sono industrie, non c'è l'inquinamento, ma anche il mare, tu lo vedi, è un altro colore, completamente diverso, cioè tu ci passi sopra, figurati quando arriverai. Io sono andato a un'altra città fuori dall'estero, fuori dall'Italia, e io guardavo il cielo e dico, ma cazzo, ma perché così? Perché così? E poi vedi, intorno c'erano le montagne, non hanno vento, d'estate viene da morire, mentre d'inverno è un freddo da cagarsi sotto, però non c'è vento, per cui lo superi, lo tolleri di più. Qua da noi basta che ci siano 8 gradi, un po' di maestrale e ti caghi sotto, per dire. Però vedi, il clima nostro è sempre pulito, cioè abbiamo questo maestrale che pulisce, a parte vabbè la gas petrolchimica quando ci sporcava un pochettino, però la pulizia del cielo è sempre luminosa. Sì, siamo molto esposti alle correnti del vento e quindi pulisce molto, più vabbè le bellezze naturali che abbiamo noi anche in Sardegna. Io mi ricordo sempre, come si chiama quel posto, alla parete a strapiombo che poi si affaccia sul mare, c'è una scala zigzag ripida, va zigzag e serve ad arrivare in spiaggia, può essere Villaggio Nurda. Ah, verso Trentino sta dicendo? A me mi ci portavano, magari io non saprei arrivarci. Sì, c'è proprio uno strapiombo, una parete a picco, questa scala molto ripida, zizza. Guarda, mi ricordo, c'erano dei turisti, sai, biondazzi, tipo milanesi, insomma, sempre molto nord Italia, no, che loro il mare non lo vedono mai. Quando siamo arrivati con questo amico, stavano guardando giù, erano con le mani in testa dalla bellezza del mare, ma poi in quel punto è di un verde smeraldo, guarda, una cosa paradisiaca, e questi erano con le mani in testa estasiati dalla bellezza del mare. Infatti quando ero a Milano anche ricoverato, no? C'era questa istanza come questo ragazzo che era estasiato pensando al mare della Sardegna. estasiato era, estasiato, dicevo potrei... ma butta, era estasiato dal mare nostro, perché lui abita in zone molto interne, no? Sempre Torino, quella roba lì, e diceva voi avete il mare, è una cosa, rinuncerei a tante cose, pur di stare, dice, in una regione del genere. Sì, Giallo, insomma, senza allargarti molto, devi stare cacciando un po' aperto, il mare è aperto, di lì è bello perché anche aperto, sì, è anche profondo, di lì, tra l'altro, il mare. E quando arrivano a Porto Torres, che passano nella, cosa, nella prima spiaggia di Balai, Balai vicino, quando arrivano, io i miei amici che sono arrivati, rimanevano, cavolo, che bello questo posto, ti stai preoccupando poco, ho detto, se ne vedi, punto. Io parlo la prima spiaggetta di Balai, quella chiusa, cioè presente, come arrivi, dove c'è l'ancora, vicino quell'ancora di lì, dopo lo studio lungo, c'è cioè quella spiaggetta storica di Balai dove vanno tutti a tuffare, come arrivano certe giornate di lì è bello, pulito il mare eccetera, però ho detto ma non è neanche il mare più pulito questo qua, rispetto ad altre zone, per dire se li vuoi far vedere i posti meglio devi andare dalla costa orientale, ci sono delle calette con dei colori da paura, l'arcipelago, per dire loro quando arrivano non hanno mai visto, sono abituati al mare di Ustia, al mare di Rimini, di Riccione, che sono dei mari chiusi, quelli di mare Adriatico, che cacchio vedi l'acqua è marrone, cacchio. E quello anche volevo dire, il mare Adriatico spesso ho visto acqua gialla, bassa, non bella, poi le zone di scogli sono quelle che prediligo, no, ho misto sabbia e scogli, un caso spettacolare, guarda, spesso con questi amici andavamo anche a Calaviola, tuffarci con le mute, con i fucili, poi vabbè non prendevamo niente perché eravamo schiappe, ma c'era un mare molto, abbastanza profondo, mi ricordo, ma di una trasparenza, vedevi, dopo decine di metri riuscivo a vedere il fondo nitido, guarda, ma freddo pure, io soffro il freddo, io muta, guanti, abbiamo un freddo, una muta integrale ovviamente, avevo un freddo da crepare. No, io non sono freddoloso del mare, anzi, molte volte d'estate c'erano amici, si mettevano la mezza muta, io ce l'avevo con la manica corte, certe volte, ma la toglievo, mi faceva male, non riuscivo a respirare, preferisco andare, magari anziché starci due ore in acqua, ci stai di meno, non sei obbligato a mettere più piombo, niente, sei più libero e tutto. Poi quando c'è freddo vai te ne esci, ma l'estate scorso io ho visto il mare a 26 gradi e anche a 28 in riva, mai visto in vita mia la temperatura dell'acqua così alta, perché io ho l'orologio con la temperatura pure, segnava 28 gradi, 28 e qualcosa ha segnato quest'estate, una cosa mai vista, cioè ti faceva male a stare seduto in acqua. Scusa un attimo Robe, l'ultima frase che stavamo parlando con mamma. Ho detto, io non sono freddoloso per il mare, diciamo, non è che sia un esprimente, però non è che sto tenendo così tanto il freddo. E stavo dicendo, però il caldo di quest'estate, di 28 gradi e 4 ho segnato, quest'estate è seduto nel bagnasciuga, non l'avevo mai visto in vita mia. 28 e 4, ma in acqua o no, fuori? Non credo in acqua. Sto parlando in acqua, dentro l'acqua, c'erano 28,4 gradi, in un metro d'acqua, in acqua bassa. Aspetta, 28 gradi in acqua, è brodo praticamente, ci puoi mettere le spezie. Poi ti dico un'altra cosa, vabbè, di lì ero in piscina, a Calalupo, sono andato quest'estate, ci vado qualche volta, c'è di fronte a Calalupo c'è un resident, lì ci sono delle piscine di acqua di mare, stanno a 30 metri dal mare, prendono l'acqua del mare e la pompano sulla piscina continuamente, l'acqua per cui è pulitissima, non mettono né cloro né niente, perché sta sempre girando l'acqua del mare. Di lì è arrivata a 30 gradi, sono andato al periodo di Ferragosto, me ne sono uscito dall'acqua perché mi stavo sentendo male, cioè neanche quando ti fai la doccia era così calda l'acqua, mi sono messo all'ombra, sono andato a farmi una doccia di acqua fredda, di fredda a temperatura ambiente, perché ero morendo da lungaggio, non si poteva stare dentro la piscina. Sì, quando è troppo è troppo, mi hai ricordato mia zia che un'estate, vabbè, lì alla piscinetta fuori terra, no? Quelle che riempi, ma era al sole, l'acqua dolce naturalmente, acqua diretta, era al sole, cioè, stavamo bollendo in questa piscina, non era per niente rinfrescante in piena estate, era bollendo, infatti ha dovuto aggiungere acqua fredda presa dal pozzetto pure, mamma mia, comunque vabbè io in acqua sono abbastanza freddoloso, quindi a me piace più Platamona e mari caldi. D'altronde purtroppo la zona di Scogli è fredda, tipo Capo Galera, no? Punta Galera, fredda e ghiacciata. e quindi entro in costume, no, a fare il normale bagno, per me freddissima, poi le bombarde, lazzaretto, non ne parliamo, una cosa terrificante per me. Infatti piano piano mi devo prima, perché sai, sei accaldato già da quando stai sull'asciugamano, quindi io piano piano comincio a bagnarmi i punti chiave, tipo la nucca, i polsi, il torace, no, zona stomaco, in modo che come ti tuffi non stai passando dal caldo estremo del sole, perché molti si sentono male così, capito? Certi addirittura avevano mangiato come porci, magari al sole pieno, poi si tuffano e poi sa, secchi, capito? Lì viene la sincope istantanea, perché bisogna entrare gradatamente in acqua. Questa è una cosa che mamma mi ha sempre detto già da piccolo: entra, bagna i polsi, bagna la nucca, bagna piano piano il torace e lo stomaco con la mano e poi ti immergi, ma non ti buttare sudato o stomaco pieno o accaldato, perché sennò ti disintegra. Uguale identico io, sempre da piccolino, sempre, e ancora di più da grande, perché cazzo, a parte io al sole non ci so, io quando sono al mare devo avere l'ombrellone oppure in qualche posto di ombra, o se non c'ho l'ombrellone, raramente che non abbia l'ombrellone, sto sempre in acqua, mi devo bagnare sempre sempre, perché stare in spiaggia o c'ha sole, mai, da me non lo vedrai mai, proprio non ci posso mai, magari a fine stagione, a ottobre, quando fine settembre, ottobre, quando iniziano un po' a rinfrescare le giornate, però al sole io lo odio, non è che non mi piace, è proprio mi va a zivare, non ci riesco a stare sotto il sole, devo bere un po' di acqua, devo sempre innaffiarmi, anche col camper mi metto sempre in zone ombrose, non mi piace tenerlo in posti a occhio al sole, perché guai. Sì, sì, uguale, tu sembra che abbia descritto me, io al sole ci sto 10 minuti, tanto da togliere il biancore eccessivo della pelle, poi sto tutta la metà del tempo rimanente, a parte i 10 minuti al sole, metà in acqua e metà sotto l'ombrellone, cioè a me piace stare, non sono un maniaco della tintarella, sì, un po' ci vuole, ma mi piace stare sotto l'ombrellone, poi io già sono tipo che mi si porta sempre anche il lettino da mare, no? Bello quello pieghevole, col parasole, ci metti l'asciugamano, sono molto comodone io, capito? È più comodo, molto più comodo che non mettere l'asciugamano a terra, poi lì puoi inclinare lo schienale per la testa come vuoi tu, è come essere a casa, un bijou. No, già lo so, anche io sono come piace stare buttato. Ok, cosa volevo dire? Aspetta, vediamo un attimino su 10 se c'è qualcuno che vuole entrare. Questa è propagazione. Ma tu Roberto non devi pranzare, o hai già pranzato? No, ho mangiato una cosa veloce, non è che avevo tanta fame, perché di notte ho mangiato abbondantemente ed c'avevo un po' di nausea la mattina, stamattina alle 3 mi sentivo lo stomaco un po' giù, dice allora mi ho preso appena mi sono alzato, poi verso le 5 mi ho preso un po' di bicarbonato e mi ha calmato tutto, invece ho mangiato troppo abbondantemente e troppo velocissimamente, e oggi ho mangiato leggero dei raviolini al burro, veloci e buh, e una mela. Eia. Vabbè, poi vabbè, io non pesca sub, non ne posso più fare, non, il fisico non ce la fa, non ho fiato, anzi sembra che il fiato con l'andare degli anni si stia restringendo la capacità respiratoria, sarà che la schiena è un po' curva, quindi incide un po' sull'espansione dei polmoni, lo sai, me ne sono accorto. E avevo preso anche per fare snorkeling, no, per guardare i fondali, perché la passione mia poi è quella, è guardare i fondali dalla superficie, quelle maschere Subea di Decathlon, no, però il primo impatto, cioè ho trovato conferma in quello che dicevano molte persone, rispetto al boccaglio normale, ti dà l'impressione che vai in debito d'ossigeno, cioè per come è strutturata respiri e ti viene fame d'aria, poi io già certe volte ero un po' ansioso i primi tempi che vado al mare, no, ogni stagione, insomma mi veniva da fare da respirare proprio a pieni polmoni, non era una bella sensazione, e ho saputo che uno che suonava in un'orchestra, no? Che aveva di suo dei problemi già respiratori, tipo anche lui aveva una scoliosi accentuata e quindi aveva la capacità polmonare un po' ridotta, no? dice che si è messo una di queste maschere di Decathlon, uguale identica, si è tuffato dalla barca, non so in che modo, però per motivi che io non ho nemmeno capito, ha perso i sensi e è svenuto. Adesso qui si tratta di capire se il tipo sia tuffato proprio tuffo vero e proprio, però quella maschera cosa c'ha? Quella maschera non è fatta per immergersi, quella maschera appena vai a pelo d'acqua, sotto il pelo dell'acqua, c'è il galleggiante che chiude la respirazione, no? Come era un po' il boccaglio dei bambini, no? Che c'aveva quel galleggiante che tappava, no? Da sotto, tappava la, per non far entrare l'acqua, ecco. C'era un fare. Questo magari è un tipo che abita anche in zone lontane dal mare, magari non era molto pratico, insomma sarà tuffato. Presumo che quella galleggiante abbia chiuso l'afflusso d'aria per non far entrare. Questo ha avuto un istante di panico, non è riuscito a respirare e ha perso i sensi, lo sai, ha perso i sensi. Gli amici per fortuna l'hanno visto a pelo d'acqua a faccia in giù, naturalmente poi la respirazione c'era perché il tappo, quello che tappa è sceso, però questo ha perso i sensi gettandosi in acqua. E allora ha denunciato Decathlon, poi non ho mai capito come è andata a finire, non ho capito come è andata a finire. Solo che sapendo che problemi aveva, io mi sarei letto un po' di recensioni. Proprio quella maschera non l'avrei presa, mi sarei preso una volgare maschera purché buona, tipo Cresci, Mares, e il volgare boccaglio, e va più che bene quello. Guarda, io non l'ho mai utilizzata, l'ho vista diversi anni fa, almeno 5 anni fa, l'ho vista questi spagnoli che l'avevano portata e sono rimasto un po' colpito. Molti la usano tranquillamente, dice si trovano bene, io non l'ho mai manco provata, nel senso l'ho solo vista, però non mai utilizzata. Io utilizzo sempre la classica maschera da sub, diciamo, col boccaglio normale, morbido naturalmente, non di quelli rigidi, perché qualcuno usa rigido, in modo che se ti comprimi sulla lato meningi, dai, non ti quelli in coso, in PVC non ci sono mai riuscito a tenerli, quelli che facevano male. Uso quella classica maschera così, il boccaio molto morbido e mi trovo bene. Con quella non ho mai provato, però ho visto tanta gente che c'era, a parte i bambini, tanti bambini c'erano, ma ho visto anche degli adulti e dice si trovano bene. Di questi discorsi che mi stai facendo tu non ne ho mai sentito. Io mi pare di aver letto anche a recensioni Decathlon, qualcuno si lamentava che ti dava una sensazione di mancanza d'aria, sì. Sai cos'è? Per come è progettata, avrebbero dovuto, nel tubo che porta l'aria, mi pare sia diviso in zone, però, come dire, io quel tubo che porta l'aria l'avrei usato solo per l'afflusso d'aria. Per esempio, c'è una maschera molto bella, non so il collo se è della Clissi o di che marca è. Allora, lo snorkel serve solo a aspirare aria, poi due valvoline laterali alla maschera buttano fuori l'aria già respirata, no? E quello è meglio perché nel tubo che porta l'aria troverai solo aria fresca. Aria fresca senza anidride carbonica, capito? Invece in questa ci passa sia l'anidride e sia l'aria aspirata che quella già capito, no? Inspiri ed espiri dallo stesso tubo quasi, anche se mi pare sia diviso in due sezioni, però bene o male non è ottimale. Ma perché anche il boccaglio normale, lo snorkel normale così, però quella maschera l'ho notata questa fame d'aria che mi veniva un pochino, e non è una bella sensazione in acqua, perché ti viene, se sei nervoso ti viene il panico. Magari bisogna avere il diametro del passaggio dell'aria, perché magari molti di questi che provano queste maschere, quelli secondo me hanno avuto dei problemi, è perché magari non sono abituati a respirare col naso. Molte volte tutti sono abituati a respirare con la bocca soltanto, io forse sono abituato a respirare col naso, anche dormendo, c'è gente che usa la bocca per respirare, però se ti abitui da piccolino a respirare col naso forse ti trovi anche meglio di queste, fare le compensazioni, poi io le ho sempre fatte senza bisogno di toccarmi il naso, la compensazione quando immergevo anche fuori dall'acqua le so fare col coso deglutendo, però non lo so, non posso giudicare perché non l'ho mai vista quella roba lì. Però il discorso vale, c'è il panico iniziale perché ti trovi con poca aria, abituato a prenderne tanta e ti dà quell'ansia all'inizio, poi magari ti abitui e riesci ad andare avanti. Eia. Allora, di bello. Di bello con la maschera che non si appanna, almeno con un uso normale non si appanna in effetti, perché ha la sezione degli occhi separata dalla sezione bocca-naso, cioè proprio per la naso, la bocca e la mascherina oronasale. Quindi quando tu respiri l'aria arriva dall'alto, passa nella zona occhi, provvede a rinfrescarla, quindi a non appannarla, poi da due le valvoline entra nella maschera oronasale e poi viene espulsa diciamo fa tutto il giro della maschera ai lati e riesce dal tubo principale, no? Qualcuno è riuscito a appannarla, non so come, forse respirando in modo sconsiderato, oppure valvole difettose, eccetera. No, stavo cercando più che altro quella marca, quella maschera bella, mi pare della Cressy, ma poi è accattivante anche molto come aspetto, perché è praticamente tra il trasparente del vetro, il nero e l'arancione. Vediamo se trovo il modello. Allora, di maschere io ne avevo una che mi sarà durata 20 anni, della Mares, la Occhio, che c'aveva silicone nero, è stata una delle primissime che avevano fatto, infatti l'avevo presa da Mario Forbice, ma più di 20 anni mi è durata. Dopodiché me ne ho comprata un'altra così discreta e poi sono andato da quello, come cavolo si chiama, Napoletano, dal mercatino delle Pucci, me ne ho preso una diecina di maschere, in stock Mares, Cressy, Homer, ce ne ho, me ne ho messo tre in macchina, due ne avevano la barca, l'altra me l'ho messa quando vado a coso, nel campo, ne ho riempito tutto il Zaffari, ogni macchina che usavo c'avevo le maschere dentro. Beh, almeno se avevi un problema con una potevi sostituirla subito. Ecco qua, vabbè, non la trovo, pazienza. Sì, io invece io sono un maniaco un po' della marca Cressy, no? Pinne Cressy, maschera Cressy, certe volte le preferivo alle Mares, le maschere un po' più morbide di silicone, eccetera. Se ne ho una, ce l'avrò 20 anni o 25 anni, la famosa che vendono tuttora, la Pinocchio della Cressy. Quella che ha quel ferritino che ti passa a metà lente, no? Naturalmente quella è in gomma, quindi è meno morbida di quella in silicone, però diciamo un pezzo particolare, un vintage potremmo dire. No, però l'ho avuto anche io, la conosco, una maschera eccellente, tanti sub l'hanno usato. Ti ripeto, io le ho prese una diecina, le ho prese tutte in scatola, nuove, perché poi io ho un viso un po' particolare, no? Quelle troppo grandi non mi chiudono bene, il naso che ce l'ho un po' pronunciato, devo prenderla che non mi spinga troppo, non mi faccia male, perché la maschera io me la devo sentire, proprio la devo sentire, che la tiro, aspiro e mi deve rimanere incollata. Ma ne ho, c'erano tante anche belline, però non si adattavano al mio viso. La maschera non ti deve fare male quando la indossi, non ti deve lasciare segni, e questa qua della Occhio è stata quella che mi sono trovato molto meglio. E poi ne ho una della Mares che la uso lo stesso nell'altra macchina, me la porto appresso. Poi c'ho della Home, e ti ho detto, ne ho preso una diecina, ne ho regalato qualcuno a mio nipote, ho detto, te prendi, tanto costavano 3 euro l'una a livello di regalo, mi maschere che costavano 30-35 euro l'una e stavano andando a 3 euro. Ehi, da quel napoletano sì, ogni tanto prende qualche stock. A me piacevano molto quei pantaloni militari, no? Addirittura c'è proprio uniformi americani con tanto del nome del soldato, i gradi, boh, tutta roba. Ma speriamo che non abbiano sfilata qualche morto. Ma figuraccio. Allora, ho trovato la maschera, sempre di quelle però piano facciale, quelle strane. SEAC unica, questa molto bella, trasparente, nera e con delle finiture arancioni, compreso il nastro che passi dietro la testa, no? La bardatura, come si chiama. Questa sì, aspiri aria dal tubo, poi c'ha due valvoline diciamo all'altezza delle tempie, no? Più o meno, che buttano fuori l'aria da lì. E quindi nel tubo entra esclusivamente aria fresca e non aria mista di anidride carbonica, no, che poi tu butti fuori. Ma tu c'hai la mascherina integrale? Sì, quella della Decathlon, però io non sapevo l'esistenza di queste. Sì, si chiama Subea, Così per lo snorkel può andare bene, io subito ci ho messo l'attacchino per la GoPro dei poveri, come la chiamo io, tanto per riprendere un po' i fondali. Sì, ma la cosa, ma ti immergi pure, quanto riesci a scendere con questo? No, quella non è fatta per scendere, quella anche perché poi è piena d'aria dentro, no? Quindi è come avere un palloncino intorno al viso, non, sì, già riesci a scendere, ma io non ci ho provato nemmeno, non ci provo nemmeno, no, non mi fido più per via della salute mia a immergermi. Sì, ma un metro almeno entrarci col corpo ci riesci? Sì, volendo anche di più, diciamo. Però naturalmente, vabbè, acqua non entra, ripeto, acqua non entra perché c'è quel tappino che chiude, però fai uno sforzo maggiore che non immergendoti con la maschera normale, che ha un volume ridottissimo, no, all'interno della zona occhi, capito? No, è importante che ti puoi immergere per provarla, se capita qualcuno, qualche amico che ce l'ha, se la voglio provare, perché c'ha di bello che c'è un campo visivo molto ampio. Sì, quello sì, quello l'ho apprezzato, campo visivo ampio, caspita, questa SEAC è meravigliosa, guarda, e costano anche poco, cioè quanto quella Decathlon, solo che poi compri una e compri un'altra. Quella della Cressy invece Omare se non mi piaceva perché aveva il tubo da un lato, già questa asimmetria, no? Aveva un tubo anziché al centro della fronte, diciamo, della testa, era di lato, vicino alla tempia, non mi piaceva la asimmetria. E quanto costa? Ma ha perso questo almeno una cinquantina di euro con le maschere, quanto costa? Allora, adesso controllo, poi sai una cosa, queste maschere Subea di Decathlon le hanno convertite mediante adattatori stampati con le stampanti 3D, le hanno convertite come maschere a pressione positiva per la, anche perché ha avuto il Covid. Cioè in mancanza di maschere ospedaliere tu portavi questa con l'adattatore e aveva gli attacchi pronti per l'ossigeno e tutto quello che serviva, capito? E ti arrivava bello l'ossigeno diretto, con pressione un po' positiva, no? A tubo pieno, diciamo. Sì, l'ho visto, dei ragazzi l'hanno brevettato per usare due rianimatori, non come si chiama, ossigenatori in contemporanea. Eia, sì, è bella questa storia della stampante 3D, A me interessava per un'altra cosa, però non ne compro, non c'ho lo spazio, non, assolutamente. Preferisco comprare i pezzi singoli prodotti da terze persone. Allora, vediamo, un attimino e controllo. La parte 3D le trovi da qualche centinaio di euro sino a diverse migliaia di euro, dipende da cosa vuoi fare, dalla velocità e dalla grandezza del pezzo. No, sono cose interessanti, dai, anche io ci stavo pensando. Allora, ecco, Subea, Decathlon, fine serie. Ah, fine serie pure, ce le stanno togliendo, porca miseria. A leggere così io dovrei andare a fare scorta di valvoline, di snorkel perché te lo perdi prima o poi. Sì, qualche ricambio lo voglio comprare appena posso, appena si potrà girare un po' più liberamente. Allora, prezzo. Aspetta, fine serie. Vabbè, questo è il prezzo online, non so se poi al negozio. Allora, anziché 24,99, 14,99, quindi anziché 25 euro, 15 euro, prezzo valido dal 29 marzo fino al aggiornamento scorte, quindi le stanno anche togliendo di mezzo queste, probabilmente le cambieranno con altre, ah ecco perché hanno cambiato il modello, hanno fatto un modello più aggiornato, diciamo. Ma stavo parlando di quella facciale di Decathlon. Sì, quella facciale di Decathlon, quella che ho io, che trovavi un anno fa, due anni fa, anche tre anni fa, marca Subea. Sì, fine serie, le stanno svendendo praticamente. E sotto vedo un modello similare, però più aggiornato. Vediamo com'è. Easy Breath 500. È la stessa, Vabbè, comunque le stanno scontando di brutto, buono sapersi. Però il colore, diciamo, è bianca, il telaio bianco, vabbè, il vetro, che poi non è vetro, è policarbonato trasparente, poi è azzurrina, c'è la mascherina oronasale, la gomma su un azzurrino chiaro. Ah, oh, cazzo, io lo sapevo costasse una quarantina di euro, quindi un prezzo quasi a regalo. E sai cos'è? Appena uscita costava di più, sì, costava un sacco di soldi. Però era anche l'unica, poi l'ha fatta la Mares, l'ha fatta la SEAC, la Cresci, insomma tutte le stanno facendo, addirittura c'era un modello da, di marca Tre Spade da Coso, da Lidl, era arrivato un modello similare, però lì non hai ricambi, capito? Mentre vabbè, ti davano, che adesso perdevi lo snorkel, ti davano lo snorkel di ricambio, ti davano valvoline di ricambio, la cinghia che passa dietro la testa di ricambio, quindi è buono fare un po' di scorta di ricambi. Adesso che lo so, buono sapersi. Dai, adesso mi assento un pochettino, dai, magari ci sentiamo più tardi, Marco, dai. Bella, grazie per la conversazione, dai, sempre interessante, dai, ci sentiamo più tardi. Vado, mi taglio 10 minuti. Ciao ciao. E io Robè, ci sentiamo, dai. Buona serata, a più tardi sempre, dai, che questi giorni sono un po' messo male, dai. Ciao ciao.